L'indipendenza esiste solo in una persona fisicamente, psicologicamente adulta e sana. I bambini dipendono dai genitori come dipendono dagli altri, le persone portatrici di handicap e gli anziani. L'indipendenza è uno dei maggiori traguardi al quale una persona deve e dovrebbe mirare, perché non solo è un bene per se stessa, ma è un bene anche per altri. Infatti, chi dipende costringe gli altri ad impiegare tempo e tante altre risorse che potrebbero dedicare altrove. La dipendenza esiste per due ragioni fondamentali: perché si ha una necessità e perché non si è in grado di soddisfare questa necessità. Infatti, non avendo bisogni, non si avrebbero delle necessità e, essendo in grado di procurarci ciò che occorre, non avremmo bisogno degli altri. Per quanto si disprezzi il cristianesimo, questo offre all'uomo la migliore indipendenza che esista e va da sé che, facendolo, il cristianesimo è in grado di rendere l'uomo capace di soddisfare le proprie esigenze, rendendolo inoltre libero dalle necessità. In merito troviamo scritto quanto segue nel Vangelo di Giovanni. Mentre egli diceva queste cose, molti credettero in lui. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui: «Se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi». Essi gli risposero: «Noi siamo progenie di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire, diventerete liberi?» Gesù rispose loro: «In verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Or lo schiavo non rimane sempre nella casa. Il figlio invece vi rimane per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi». Giovanni 8.3036. Peccato non è una parola inventata perché debba far parte del linguaggio religioso. Non è un'opinione dei fissati di giustizia. Non è neppure un'opinione soggettiva, ma è una realtà che rende schiave le persone. Quando uno non riesce a liberarsi del vizio del gioco, della droga, di una debolezza del suo carattere come l'ira o la maldicenza, ammette e dimostra che in lui vi è qualcosa più forte della sua volontà e questo qualcosa si chiama peccato. Colui che accetta e riconosce umilmente che Gesù è il suo Salvatore riceve lo Spirito Santo che lo libera dalla schiavitù del peccato, lo libera dalle necessità e dalle dipendenze e sperimenta una libertà mai provata prima. Solo il cristianesimo è in grado fare questo. Anche se il credente è stato reso libero dal peccato, può succedere che senza rendersene conto cada sotto ad un'altra dipendenza molto più difficile da individuare, quella dalle riunioni. Così si esprime un famoso scrittore, Martin Lloyd-Jones, nel suo libro Depressione spirituale, commentando ciò che è scritto in Filippesi 4.1013. Or mi sono grandemente rallegrato nel Signore, perché finalmente le vostre cure per me si sono ravvivate. In realtà già ci pensavate, ma ve ne mancava la opportunità. Non lo dico perché sia nel bisogno, poiché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. So essere abbassato, come anche vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere sazio e ad aver fame, ad abbondare e a soffrire penuria. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Questo è il suo commento. Viviamo in un'epoca di grandi incertezze e una delle lezioni più valide da imparare è quella di rimanere indipendenti dalle circostanze. Queste non dovrebbero in nessun modo modificare la nostra pace interiore. L'organizzazione attuale della vita rende questo traguardo quasi irrealizzabile. Persino nella vita normale dipendiamo totalmente da quello che fanno gli altri e questo rende assai difficile vivere a modo nostro. Accendiamo la radio o la televisione e poco per volta ne diventiamo schiavi. Lo stesso si può dire dei giornali, del cinema, dei divertimenti. Quasi senza accorgercene si crea un'dipendenza. Ciao, è persino chi teme uno sciopero della televisione perché non saprebbe che cosa fare. Questo stato di cose non risparmia purtroppo i credenti. Uno dei più grandi pericoli nella sfera spirituale consiste nel diventare dipendenti dalle riunioni sempre più numerose.

Quando un credente cattolico romano pone fede in Cristo quale unico Papa e Salvatore, non trova più di tanto problematico il frequentare locali di culto dove si adora solo Gesù Cristo in spirito e verità. Spesso il credente cattolico romano passa da una devozione alla religione ad una devozione ad una confessione religiosa. Passa da una sottomissione ai capi religiosi cattolici a quella di guide spirituali cristiane. Passa da un'adesione alla forma religiosa al cattolicesimo romano a quella verso la forma religiosa al cristianesimo. La dipendenza che un religioso aveva nell'ambito della sua religione si trasporta nell'ambito del messaggio evangelico. Ho presente un cattolico romano così, sottomesso al Papa, ai vescovi e alla religione, che spesso castrava la propria intelligenza pur di non disubbidire, e l'ho visto, in seguito alla sua conversione a Cristo, reprimere la propria intelligenza, pur di ubbidire alla sua guida spirituale. Chi appartiene a Cristo è stato liberato da ogni schiavitù, compreso anche dal sentirsi in colpa se non può frequentare le riunioni, o se disubbidisse per motivi di coscienza ai suoi superiori spirituali. Il credente indipendente non è colui che fa quello che vuole, che non è vincolato da niente e da nessuno, ma chi è sottomesso a Cristo e pertanto non può essere sottomesso a nessun altro. L'Apostolo Paolo era un uomo completamente sottomesso a Cristo e per questo poteva in ogni circostanza, sia positiva sia negativa, sapere comportarsi in modo adeguato. Paolo era pienamente soddisfatto perché era pienamente sottomesso a Cristo. Inoltre Paolo e tutti gli apostoli erano uomini liberi da ogni autorità religiosa. Infatti davanti ai capi religiosi del tempo, i sacerdoti, gli scribi e i farisei, pur rispettandone e onorandone il ruolo, disubbidirono quando si trattava di ubbidire a Dio. Dove sono oggi quegli uomini indipendenti capaci di disubbidire ai capi religiosi? Quando si tratta di ubbidire a Dio? Dove sono oggi quegli uomini indipendenti capaci di non essere condizionati dalle circostanze? Dove sono oggi quegli uomini indipendenti da non essere condizionati dalle riunioni religiose? Gesù ha bisogno di uomini che si sottomettano totalmente a Lui per realizzare quella indipendenza così rara ma utile al regno di Dio. Novembre 2006. Ellero,